si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Alle 8:30 minuti, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buon sabato. E buongiorno anche a Carmelo Lauricella, che ritroviamo dopo la rassegna stampa, sta già dormendo ma ora lo svegliamo perché non si può iniziare una trasmissione dormendo, scusami Carmelo. E buongiorno anche a Edoardo Lavezzari, che oggi è in assistenza al programma. Che cosa facciamo oggi? Il quiz, vero? Oggi certo, oggi è sabato e quindi potete chiamare all'800 24 00 24. Ora ce lo facciamo tra di noi il quiz, perché abbiamo già la base. Per ce l'ha già il messa. Nostro quiz. Il quiz come funziona? Noi vi leggiamo una notizia con tre possibili finali e voi dovete indovinare qual è il finale corretto. Se indovinate, vi portate a casa due biglietti per la mostra Impressioni d'Oriente al MUDEC di Milano. Preparatissimo. Hai indovinato, hai due biglietti. E sono felicissimo, è sveglissimo Carmelo, giustamente si è sentito toccato nel vivo, invece è sveglissimo. 824 00 24 per prenotarvi e partecipare al quiz, e poi c'è sempre il 349 238 6666 che non vale per prenotarsi al quiz, ma vale per tutto il resto, quindi commenti, opinioni, segnalazioni, messaggini, quello che volete. Cuoricini soprattutto ci piacciono di più di altre cose. Anzi, abbiamo una bellissima domanda oggi. È giusto. Abbiamo una bellissima domanda, perché è stato scoperto il pianeta abitabile più vicino e simile alla Terra, grazie anche a due italiani. Ora, sulla vicinanza, diciamo, io avrei qualcosa da ridire. Circa 101 anni luce. Io so che a casa mia figlia, che è molto appassionata di queste cose, si è messa un po' a calcolare e si è arresa. Ovviamente poi, voglio dire, a 14 anni non è che si può calcolare certe robe. Cioè, però, ha calcolato quanto ci metteva con la sua bicicletta. 101 anni luce, se erano percorribili, insomma, ma ci siamo arresi. Però diamogli un nome migliore a questo benedetto TOI 700D. Questo è il nome che gli è stato attribuito per ora, quindi non è un nome che è facilmente pronunciabile. Non è Terra, non è Luna, Giove, no, TOI 700D. Tra l'altro ci sono anche due italiani, due napoletani coinvolti in questa scoperta. Sono un docente di astronomia che si chiama Giovanni Covone presso la Federico II di Napoli e Luca Cacciapuoti, studente magistrale del corso di laurea in fisica. Come lo chiameresti tu, Carlo? Hai avuto qualche ispirazione? Non ho avuto ispirazione, ma sono curiosissimo di sentire i nostri ascoltatori, perché sempre quando vediamo di queste nuove scoperte, di questi... questo tra l'altro sembra veramente un pianeta abitabile, è un pianeta che pare che sia grande tanto quanto il nostro, con un sole un po' meno potente del nostro, perché mi sembra di aver capito che è tipo un 40% di quello che è il nostro sole. Quindi veramente ogni tanto mi immagino, dico, forse arriveremo a un punto in cui dovremo prendere una navicella e spostare starci tutti su questo nuovo pianeta e riniziare tutto da capo. Però giustamente sempre questi stelle, astri, ma poi so che entro in una questione dove qualcuno mi dice guarda che è tutto sbagliato, e quindi bisogna dargli un nome vero, perché nessuno può dire ho preso un biglietto per il TO, che neanche sapevo se è O o 0, TOI, TO1, TOI. Io direi TOI 700, mi pare, TOI. E poi c'è una D, vedo anche, perché evidentemente c'è anche ABC, che sono invece dei postacci schifosi. E quindi vi chiediamo come chiamarlo, non lo so, forse come ci dicevamo ieri, con un nome che contenga della napoletanità, quindi chiamarlo la Frisella. No, la Frisella non è napoletana. Ho sbagliato tutto, ma io avevo in mente le verdure, vabbè, comunque magari qualcuno ci darà qualche Ci teniamo la libertà di proporre Napolus, anche vedi, noi. È già arrivato alla prima proposta. Vedi, Napolus. Sono Napolus. Molto più bravi di noi qui su Sfogliatelle. Il Napolus. Dove vai? A Napolus. Bellissimo. Napolus. Un biglietto per il Napolus. Fra 100 anni sono lì. 601 anni luce, comunque va bene. 824 0024 per il quiz, 349 238 6666 per tutto il resto, e anche qualche buon nome per questo pianeta così carino, così simile a noi, così distante, ma insomma che merita un nome sicuramente migliore di quello che gli è stato dato per ora. Vero, potremmo anche dire, non so se il notaio sarà d'accordo, mi prendo la responsabilità, anche se sicuramente sto sbagliando nuovamente, che se nessuno indovina il quiz, potremmo dare a nostro insindacabile giudizio i due biglietti a chi dice il nome più bello, ripeto, a nostro insindacabile giudizio. Oppure che possiamo valutare nel corso della puntata. Perfetto, ci sto. Io non ho trovato grandi buone notizie questa settimana, non so tu, tra poco ci dirai la tua. Io alla fine sono giunta alla conclusione che l'unica buona notizia per me della settimana è stata che non mi funziona più l'app del registro elettronico della scuola delle bambine. Sono all'oscuro di tutto, come un genitore degli anni 70, 80, quando 90 quando queste cose non esistevano, tu non dovevi controllare compulsivamente il registro per sapere com'è andata il compito di latino, di greco, di matematica, di qua. Perché ne parlo spesso con le mie sorelle e i miei fratelli, la trovo una cosa pazzesca che voi abbiate il controllo totale. Volendo. E siccome io adesso non voglio, non posso, sono così scollegata. Posso che non voglio, così dalla tua faccia che i nostri ascoltatori non possono vedere, ma insomma. No, non posso, volendo potrei certo andare sul sito internet, mettere dentro tutte le password, collegarmi, ma perché fare questa cosa? Una settimana di ignoranza. Giusto, non mi farà male. Giusto. Tanto volevo ringraziare per il messaggino auguri al Frocio in studio, che fanno sempre piacere così appena si inizia. Comunque io invece la cosa che volevo dire, quell'altro simpatico che tutte le settimane ci manda confetto Falqui, diciamo così. La cosa che volevo dire è che settimana scorsa, diciamo, eccolo, è arrivato anche lui. Vai. Cercando una buona notizia, settimana scorsa abbiamo dato conto in diretta dei giornali che titolavano Trump a un passo dalla guerra con l'Iran. Quindi direi che inevitabilmente la buona notizia di oggi è che al momento non è scoppiata la terza guerra mondiale. Mi vengono i brividi, veramente, anche solamente a pronunciare per radio l'espressione terza guerra mondiale, a vederla scritta come in questa settimana, ad averla vista nei trending topic di Twitter per diversi giorni. Addirittura come WW3, cioè World War la terza, e tutto il mondo a scriverne anche. Ovviamente non intendo parlare del conflitto in Medio Oriente, di Iran, Trump, Erdogan, Putin, Ucraina o della complessità della situazione. Voglio parlare di guerra perché mi sembra assurdo che nel 2020 sia anche solo sul tavolo l'ipotesi di un conflitto planetario, uccidersi, eliminarsi uno per uno coi droni, coi missili, coi carri armati, sparare, bombardare, scavare trincee con la pala, vedere i propri fratelli morire, sperare di vendicarli ammazzandone altri, le città distrutte, le nazioni in fiamme, la popolazione alla fame, disperata, in fuga ovunque, perché è questo la guerra. So bene che di guerra si continua a combatterne, ma stiamo parlando di una guerra mondiale che coinvolge tutti, che potrebbe non risparmiare nessuno, né tuo figlio, né tuo marito, né tua madre. Ho la sensazione che invece, quando additiamo i nemici, quando urliamo alla vendetta e alla reazione, quando instilliamo odio, quando crediamo che a un certo punto quel che ci vuole, che la guerra in fondo possa essere una soluzione, noi dimentichiamo cosa sia la guerra o facciamo finta di dimenticarlo, perché nessuna persona sana di mente potrebbe considerare la guerra mondiale un'opzione valida. Come diceva il maestro Yoda nell'Impero colpisce ancora, guerra non fa nessuno grande. La tua è una riflessione più che una buona notizia, però. No, la buona notizia è che non è scoppiata la terza guerra mondiale. Mi sembra la più grande buona notizia possibile, finché resta così, ovviamente. Certo, perché poi ecco, l'altra cosa che fa sempre un po' impressione rispetto a queste cose è che se ne parla come se stessimo tutti davanti alla scacchiera del risico, no? Davanti al. E allora questi vanno qua, questi vanno là, perché abbiamo quella distanza che. Dici molto bene. Come se riguardasse qualcun altro, ma se scoppia la guerra mondiale, qui significa che cadono le case nelle nostre vie, nel nostro negozietto sotto casa, è un po' diverso. Allora, non che sia diverso se accade a noi piuttosto che agli altri, ma se accade a tutti, è questo. Beh, perché sono cose che ormai capitano nel mondo globalizzato, anche la guerra diventa globalizzata, ciascuno poi ne risente in una maniera, ma poi ne parliamo anche nel corso della puntata, insomma, ne parliamo ovviamente nel nostro modo si può fare, però ne parleremo. Sai Carlo che c'è già una prima ascoltatrice collegata che vorrebbe darci un nome per il nuovo pianeta. Bellissimo, bellissimo. Francesca Carla, buongiorno. Ma buongiorno, che bello sentirvi. Che buongiorno. Bello sentire lei, già pimpante. È bellissimo sentirla così, così di buon umore. Ma io sono sempre così, perché penso che essere positivi e essere di buon umore serve. Giusto, serve. Giusto. Io anche quando va male a volte mi metto a cantare. Perché? È perché sto meglio. Giusto. Allora, sentiamo. Sentiamo questo nome. Allora, è un nome, secondo me, mi è venuto così spontaneo in piemontese, non è napoletano. Non c'è nessun problema. Tanto allora, non lo sanno là, nello spazio non lo sanno se è piemontese o se esatto. È napoletano. Lo trovo più che appropriato. Lasmeste vuol dire lasciami stare. Okay. Lasmeste. Lasmeste. Sì, lasmeste. Sì, sì. Lasciami stare in milanese, insomma, lasciami stare proprio. In milanese non so esattamente come. Ma va benissimo. Ma non so milanese. E perché devono lasciarlo stare, però? Lasmeste, perché noi abbiamo già sistemato la terra così male, siamo stati così, così poco bravi da curare questa terra, accarezzarla, e siamo lì in bilico, dove andiamo a finire? Allora, svegliamoci, salviamo la terra, i pianeti che sono... Cioè, cominciamo a lasciarli stare un pochettino, no? Ma... No, forse possono servire. Per fare che? Per scappare di qua? No, no, no. Noi dobbiamo fare in modo che questa terra si salvi e rispettarla veramente e lasciare l'egoismo da parte. Non dire penso per me e per gli altri se ce n'è. No, dobbiamo pensare. E noi siamo piccoli. Dico io, sono piccola, cosa servo io? Io servo a cominciare a rispettare quello che sta intorno a me. Signora, le facciamo veramente i complimenti, soprattutto perché ha trovato un nome come se fosse il pianeta a sceglierlo, cioè non è il nostro nome, è il pianeta che dice Lasmeste. E quindi mi sembra un ottimo inizio. Temo che verrebbe subito abbreviato in LMS, ma però va benissimo. No. Ho fatto la pausa perché ho detto ma però che è scorretto. Non sono tecnologica e scrivo ancora, scrivo. Ma noi lo scriviamo tutto attaccato e siamo a posto. Va bene, grazie. Grazie mille, grazie, buona giornata. Buona giornata. E, se ne avete altri ovviamente potete telefonare o scrivere. Io vi dico gli ultimi che sono arrivati. Ovviamente abbiamo detto già del Napolus, abbiamo detto Lasmeste, è arrivato Campania in onore ovviamente degli studiosi che hanno lavorato, e è arrivato anche Alderaan, pianeta immaginario di guerre stellari, quindi c'è anche quello, e poi ce ne sono altri, è arrivato Terra 2.0, poi è arrivato il Sarchiapone, vabbè, di questo è memoria cinematografica di Walter Chiari. Esattamente. Bene, stiamo già collezionando varie possibilità. Io ho detto poco fa che senza registro elettronico mi godo la mia settimana con una certa lentezza nei confronti della scuola delle mie figlie. Bene, proprio di vivere con lentezza parleremo tra pochissimo, quindi dove c'è la necessità di rallentare, la volontà di tirarsi un pochino fuori, di pensare un po' di più. Insomma, se avete anche su questo argomento le vostre segnalazioni, le vostre strategie per così riposarsi un po' dal ritmo frenetico della vita quotidiana, ebbene, siamo aperti anche a sentire sia le vostre telefonate sia i vostri messaggini. Carlo, io direi che è il momento di vedere chi con ansia sta al volante, no? Verissimo. Diamo la linea alla viabilità e torniamo tra poco. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? 800 24 0024 per tutte le vostre chiamate, appunto, a Si può fare. Allora, adesso, come dicevamo, è il momento di prendersela con un pochino più di lentezza, e lo vogliamo fare con un esperto, appunto, del vivere con lentezza, che è Bruno Contigiani. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, Bruno Buongiorno. Contigiani, arcinoto non solo qui a Radio 24 da tempo, ma un po' ovunque, perché appunto... Nel mondo, direi, proprio. Ormai... È l'inventore della giornata della lentezza. Ormai 13 anni fa, giusto? 2007. Sì. E anzi, ricordiamo anche forse un momento che in tanti si ricordano, quando nel 2007 proprio Bruno Contigiani, in corso Vittorio Emanuele a Milano, faceva le multe a chi andava troppo veloce, a chi camminava troppo veloce, a chi era troppo indaffarato, a chi non si godeva una certa lentezza. Sì, distribuivamo i comandalenti alle persone, li invitavamo a seguirne almeno uno durante la... Era un modo per parlare del tempo, perché poi alla fine le persone hanno anche voglia di parlare di cose consuetudinarie, insomma, di fare qualche ragionamento un po' più profondo del perché corrono e si costringono a correre spessissimo. Quindi è venuta bene quella volta lì, ma poi l'abbiamo rifatta anche a New York, a Tokyo, a Shanghai. Esatto, stavo dicendo, è venuta tanto bene che poi la giornata della lentezza è stata esportata a Parigi, Tokyo, Shanghai, come stava dicendo, Londra, New York. E adesso invece siamo arrivati a un punto nuovo. Intanto apprezziamo molto, visto che noi spessissimo ci occupiamo della questione della giornata, del fatto che lei dice ci sono giornate per tutto, ci sono più giornate che giorni. Come è anche abbastanza normale che sia, e addirittura che questo spesso è un alibi, così uno se ne occupa un giorno all'anno e per il resto dell'anno può rimanere nella sua indifferenza. E invece adesso lei che cosa propone? Ma io fondamentalmente propongo alle persone di fare delle scelte durature, che poi che non necessariamente devono essere irreversibili, cioè per tutta la vita. Però è chiaro che se una persona vuole cambiare, non può pensare di cambiare con un giorno, con un minuto, con un colpaccio, diciamo. Quindi l'idea è quella di dire, anche sfruttando un po' la rima, sono iniziati gli anni 20 e quindi quelli del 1900 erano gli anni ruggenti, questi vorremmo che fossero gli anni 20, però gli anni in cui le persone cercano di acquisire consapevolezza di quello che stanno facendo e quindi provate in un anno a rallentare. Poi se proprio non ce la fate, avete bisogno di una data, fatelo il primo giorno, il primo lunedì di maggio, però... Come fosse un capodanno, mi scusi se la cito, sì. Ma l'ho trovata una bellissima espressione, perché giustamente lei dice, io voglio fare l'anno della lentezza, ma non voglio perdere la prima domenica di maggio, che è il giorno... Prima domenica o primo lunedì, chiedo scusa. Infatti, mentre lo dicevo, ho pensato, figurarsi se Bruno Contigiani non ha pensato al fatto di dire, è troppo facile essere lenti la domenica che si dorme, famo un bel lunedì, il primo lunedì di maggio, e giustamente dice lo teniamo come capodanno, ma per il resto tutto l'anno. Ora, adesso, al di là della provocazione che qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma esiste anche l'anno della cultura, l'anno, quindi è sempre, ma ci sta benissimo. No, non volevamo espanderci, era proprio per dire, ragazzi, qua si continuiamo con queste giornate, un giorno è una cosa, un giorno è l'altra, però alla fine noi non cambiamo dentro. Cerchiamo sempre un suggerimento esterno, siamo in balia degli eventi, ecco, se continuiamo a manifestarci attraverso le giornate, e quindi il nostro essere non sarà mai un benessere, perché non cambia mai nulla di noi, ecco. Ma quello, quando lei dice che bisogna essere più lenti, diciamo, sì. che cosa vuol dire, in che cosa si esplicita? Per esempio, lei fa tantissime cose, no? Sì. Da associazioni, carceri, addirittura in India. Come fa a gestirle mantenendo questa lentezza, appunto? Beh, secondo me si possono prima di tutto fare delle scelte, cioè un po' sfogliare le cose che stiamo facendo, cioè scegliendo le cose che veramente ci interessano, le cose che sono un po' inutili nella nostra vita, anche se ci possono apparire importanti. Dopodiché ci si organizza, quindi se invece tutto è sulla base di una reazione, non riusciamo a fare quasi niente. Io riesco a fare tanto anche perché adesso sono una persona di una certa età e quindi sto facendo quello che viene detto un po' il give back, cioè do indietro tutto quello che ho avuto dalla vita, e quindi mi occupo di più degli altri, però non è necessario fare tante cose, l'importante è che si faccia una cosa che ci piace e che sembra, ci sembra, e che in qualche modo è utile anche agli altri. Dopodiché, per fare questo bisogna fermarsi un attimo. Le persone in questo mondo, che diciamo, ne parlavate anche voi, insomma, sono sempre più in difficoltà, però di fronte alla difficoltà reagiscono accelerando, reagiscono di corsa. Vedete anche solo i cambiamenti di opinione delle persone che in questo modo, in questo tempo, gestiscono il mondo. Cambiano opinione ogni 5 minuti. Quindi come possiamo pensare che queste decisioni siano decisioni che saranno per il bene? Quindi fermiamoci un attimo, cerchiamo di capire. Alla base di tutto c'è una pausa, dopodiché qualche risultato otterremo. Non possiamo pensare che questo risultato avvenga in una mossa, in due mosse, addirittura ho letto un libro, La felicità in 14 mosse. Beh, 14 è un buon numero, poi è anche il numero dei vostri comandamenti, quindi forse qualcuno avrà pensato che fosse di nuovo lei. No, volevo intanto ricordare i nostri ascoltatori che Bruno Contigiani non è un pigrone che dice facciamo tutto con lentezza, ha fatto l'allenatore di nuoto, il professore di matematica applicata, l'esperto di nuove tecnologie, era il capo ufficio stampa di IBM Italia, era il capo ufficio stampa di Telecom, insomma, a un certo punto si ferma e capisce. Vengo fermato. Bene fermato. Da uno scoglio, esatto. Vero? Allora, sì. se vuole, ce lo racconti lei, che è giusto. Ma sì, non è uno scoglio così della fantasia, che siccome quando si fanno le cose sempre di corsa, alla fine si pone poca attenzione a quello che si sta facendo. E io in vacanza correvo più che sul lavoro, e perché volevo fare tutto. C'è questa mania proprio che abbiamo un po' tutti, che è quella di non perdere niente, non perdere nulla di quello che potremmo cogliere, e in un momento di distrazione mi sono tuffato in un mare che conoscevo benissimo su uno scoglio. Sono stato molto fortunato, però quello che dico è che non è che bisogna aspettare il proprio scoglio. Esatto, questo è importante. Certe scelte le possiamo fare senza che qualche cosa ci fermi. Giusto, io direi che lo scoglio l'ha preso lei per tutti e noi ne siamo anche abbastanza contenti e la ringraziamo. Certo. No, dico, nel senso che la ringraziamo. Giustamente, come diceva prima Laura, lei in realtà è uno che fa tantissime cose. Adesso non sto nemmeno ad elencarle perché sono una quantità dalle carceri, sì. L'India. Forse giustamente, come chiedeva prima Laura, più che una questione di lentezza, è una questione di prendersi una pausa e capire in quale direzione. Sì. Non dico continuare a correre, perché sennò lei mi sgrida, giustamente. Però no, diciamo continuare a fare. Ma guardi, la questione è che se uno rallenta poi scopre la rapidità, cioè nel senso che se uno corre sempre alla fine non è veloce. Quelli che fanno la maratona, se poi devono fare i 100, non ce la fanno, scoppiano, cioè si fanno battere da tutti. Se lei a un certo punto ha un atteggiamento un po' felino, diciamo, in qualche modo quando avrà bisogno di fare uno scatto troverà tutte le energie e tutte le forze per farlo. Quindi non è che bisogna aspettare che arrivi questo momento, però se continua invece a spremersi, a fare, ad andare di qui, di là, su suggerimento anche degli altri, non avrà mai poi la forza o l'energia di prendere quella decisione, di realizzarla. E guardi che quella si realizza in un batter d'occhi, cioè proprio lei ha aspettato tutta la vita e poi tac, questa cosa si realizza. Perché? Perché è la cosa giusta al momento giusto. Se però è sempre una persona distratta da 100.000 cose, non si accorgerà di questa opportunità. E sa quindi, che cosa mi viene in mente adesso, dica. Visto che abbiamo l'ultimo minuto, è anche sì. Una questione di farsi un piccolo bagno di umiltà, no? Cioè non rispondere certo. Immediatamente a no. Qualunque provocazione. Adesso noi ne vediamo tante dagli ascoltatori in questo momento. Verrebbe voglia di rispondere, no? Leggo, tac, rispondo. Ma a volte bisogna sì. In realtà invece farsi magari o l'esamino di coscienza, o magari prendere un libro, studiare qualcosa e poi dare la risposta e dire sì. La so, non la so o la risolverei così. Ascoltare con un po' di rispetto, perché non è che noi siamo dei distributori automatici di consigli. Certe volte le persone semplicemente vogliono dirci una cosa e ascoltare. non necessariamente vogliono da parte nostra una risposta. L'importante è ascoltare. Ascoltando poi verrà fuori questa persona ti sta chiedendo un consiglio oppure no. Questo significa non solo lentezza, ma anche rispetto, cioè anche le persone, anche in amore. Certe volte quando ci si lascia, ti dicono guarda, dammi del tempo. Allora uno continua a dire no, guarda, io sto male, queste cose qui. No, lascia questo tempo alle persone, prenditi tempo e dai del tempo agli altri. Questo è rispetto, non è lentezza, sono anche norme proprio di vita comune. Giustissimo. Io mi porto a casa atteggiamento felino, del quale sono mi sembra bellissima come questione. Sì. Direi che è il mio anno dell'atteggiamento felino. L'anno del gatto. Esatto, l'anno del gatto, esatto. Nonostante sia credo quello del topo, forse. Attenzione. Però il topo è sacro in India, eh? Sì. Attenzione. Non è un animale così odiato. Grazie mille, Bruno Contigiani. Grazie veramente, complimenti. Complimenti, noi abbiamo grazie, ci ritroviamo dopo GR24, a tra poco. Si può fare, cronache da un paese migliore. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e ben ritrovato Carlo. Abbiamo fatto una piccola pausa senza caffè, però certo, ci siamo ripresi e abbiamo raccolto in questi minuti un bel po' di nomi che sono arrivati per quel famoso pianeta così scoperto, tra l'altro, da due italiani da Napoli, e non a caso arrivano tanti nomi legati per l'appunto alla Campania. Adesso ve ne leggo qualcuno. Margherita, in onore della pizza ovviamente, è arrivato anche Amore, e qui la nostra ascoltatrice sarà felice, ci accusava di non leggere proprio il suo messaggio, invece no, l'abbiamo letto. Poi è arrivato Speranza come proposta per il pianeta, poi è arrivato Gaia in onore di Asimov, poi è arrivato L'isola che non c'è, e poi Pace, e poi Cielo, ed è arrivato anche un po' un misterioso Iskander, che non è bellissimo, è anche il nome di un missile balistico, e poi comunque se anche si fa riferimento a Alessandro il Conquistatore, insomma, di Macedonia, un po' pesante. Chiediamo di chiamare, magari ce lo spiega. Iskander. Magari non lo ce so, lo spiega. Magari ce lo spiega meglio, magari voleva proprio parlare del missile balistico, non lo so. Comunque. Io invece volevo dire una cosa che ovviamente non sono in grado di verificare, però visto l'esempio che facevi prima, un ascoltatore, Augusto, che ci scrive: la distanza del pianeta TOI 700 è pari a circa 900.000 miliardi di chilometri, tali che percorrendoli in auto a 100 all'ora occorrerebbe 1 miliardo di anni per raggiungerlo. Io volevo fare anche i complimenti a un uomo che giustamente, siccome sa che deve viaggiare per 1 miliardo di anni, sta ai 100 all'ora, cioè neanche i 130 che sono quelli il limite dell'autostrada, sta ai 100 all'ora e dice ma tanto fra 1 miliardo di anni arrivo. E volevo ringraziare per i calcoli, che non so se siano corretti, ma sospetto di sì. Dunque, continuate pure a mandarci i vostri suggerimenti, e a proposito di suggerimenti e richieste degli ascoltatori, abbiamo una lettera dalla quale siamo partiti per il prossimo argomento che tratteremo. Per dire quanto vi ascoltiamo. E vi leggiamo. Allora, l'ascoltatore abita nel comune di Alessandria, che dici, lo diciamo che si chiama Renato, sì. Diciamo Renato. Sì. Renato, dalla provincia di Alessandria, nel comune di Alessandria, ci mette a parte delle sue riflessioni sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Dice: spesso non so in quale cassonetto devo gettare le cose, e le indicazioni sono scritte in caratteri piccolissimi, non sono di facile interpretazione, poi le regole su dove si mettono le lattine o altro cambiano da comune a comune, da regione a regione, insomma non si può forse semplificare, non si può magari mettere un bollino ben visibile, rosso, verde, giallo, a seconda della tipologia del rifiuto, in modo che ogni cittadino in qualunque 5 città d'Italia non avrebbe più dubbi, butterebbe il giallo col giallo, il rosso col rosso e il verde col verde. Anche perché ricordiamo che in Italia in ogni regione ci sono dei regolamenti diversi, se non addirittura in ogni città, in ogni comune. Eh sì, perché dipendono dagli impianti a cui fanno riferimento. Questa è la ragione, vero, però vero. Certo, il risultato è una decisa complicazione. Allora, dico una cosa stupidissima, ho apprezzato molto di questa in questa lettera che dice non siamo mica tutti ingegneri, se ci fossero i colori almeno è semplice, non è, lo capisce chiunque, è un alfabeto. C'è il problema daltonici, perché so che qualcuno dirà però è già risolto, perché si può mettere una bella lettera all'interno del quadratino colorato, così a posto tutti. Allora io ho pensato, ma come hanno fatto in certe città come ad esempio Lubiana, che in pochi anni è diventata la migliore capitale europea nella gestione dei rifiuti? E a questo punto non è stato facile cercare un collega a Lubiana. Certo. E la collega si chiama Lisa Corva, buongiorno. Buongiorno a tutti, collega davvero, perché scrivo anche per il Sole 24 Ore. Ah davvero? Questo non me l'avevano detto, io sapevo che eri dedicata ad altri temi, invece scrivi anche per il Sole 24 Ore. Anche per House Spendit del Sole 24 Ore. Ma grandissimo, vedi che carrambata, Scrivo di cose belle della vita, non necessariamente rifiuti, quindi di cose luxury per il Sole 24 Ore. Però noi vogliamo sapere da te, che vivi lì da tanti anni, che quindi hai visto questa transizione, perché Lubiana era tutt'altro che la migliore d'Europa all'inizio degli anni 2000 e adesso invece è la miglior capitale europea per gestione dei rifiuti. Ecco, ci puoi dire come è stata fatta questa transizione e quanto è facile vivere in una città che ormai ha il 68% di raccolta differenziata, quindi ottimo livello. Allora, io sono arrivata, direi che sono cittadina entusiasta, sono arrivata qua da Milano, dove avevo già cominciato a fare la raccolta differenziata, però con i problemi che ci sono in Italia, che sappiamo, ma io proprio sono un'appassionata di raccolta differenziata. Qui, da quando ma è per quello che l'hanno invitata a Lubiana, secondo me, perché sapevano che lei era già un'esperta a Milano, hanno detto prendiamo delle eccellenze dei rifiuti. Chiedo scusa. È stata la... come dire, il contrappasso per mio marito, che mi diceva sempre no, inutile buttare nella differenziata, mio marito è sloveno, quando ci siamo trasferiti qua ha dovuto farlo per forza, si è ricreduto. Direi che il grande artefice della Lubiana capitale green, come è stata, è questo sindaco che si chiama Jankovic, che è sindaco dal 2006, quindi è già al terzo mandato, e tra i suoi vari progetti disse che lui voleva rendere di nuovo il fiume di Lubiana, perché Lubiana, che è piccola e bella tra l'altro cittadina dell'ex impero austro-ungarico, ha un fiume che la attraversa. Ha comunque 300.000 abitanti, giusto? Sì. Okay. No, lo dico per gli ascoltatori che magari non lo sanno e pensano, ah beh, facile. È una capitale piccola, però è una... Dicevo semplicemente, magari qualcuno pensa, vabbè, è un posticino molto piccolo, è facile fare il 67%. No, sono 300.000 abitanti, quindi insomma. E lui arrivò dicendo, tra i suoi, diciamo, i punti del programma con cui venne eletto al primo mandato, disse, voglio rendere di nuovo balneabile il fiume che attraversa Lubiana. O meglio, voglio rendere balneabile il fiume che attraversa Lubiana. Per cui tutto il progetto di raccolta differenziata, non solo, ma la ricostruzione o il rifacimento della rete fognaria è in questa direzione. Per cui è un lavoro molto grosso, non solo di educazione alla raccolta differenziata, ma anche di rifacimento appunto della rete fognaria, per cui tutto viene ridistribuito e in effetti secondo me tra qualche anno potremo fare il bagno. Non è ancora balneabile, ci si sta ancora lavorando. Beh, però questa è un'ottima notizia, ci tengo anche a ricordare, visto che troppo spesso si parla di Europa per cose negative, che in realtà questa ascesa sostenibile della città è iniziata con l'adesione del paese all'Unione Europea nel 2004, poi ovviamente nel 2006 c'è il sindaco Jankovic, ci mancherebbe altro, però è importante ricordare questo, perché se non fosse stato, diciamo, per l'Europa, che è uno dei punti che fa parte del suo regolamento, Veneto. Insomma, questo è un buon segno ed è stupendo anche che invece adesso è la stessa Slovenia che insegna a noi altri europei come hanno fatto loro, perché certe cose hanno fatto meglio loro. Sì, ricordiamo anche dov'è un po' la Slovenia, no? Che è a un'ora da Trieste, quindi è davvero molto più vicina all'Italia di quanto si pensi. Verissimo. Ed è un paese molto verde, è una specie di incrocio tra Vienna e Balcani, non è la repubblica più a nord di quella che era l'ex Jugoslavia, ma è un paese verdissimo, un paese di foreste. Io venendo da Milano la prima volta che sono venuta qua dicevo mamma mia, solo boschi. Io sono stato... facciamo una cosa, sì, adesso facciamo andare la viabilità perché è l'orario giusto, dopo ti facciamo l'ultima domanda e... però resta con noi un attimo. Si può fare. Promo 24. Appuntamento al GIC, giornate italiane del calcestruzzo, Italian Concrete Days, l'unica mostra italiana interamente dedicata a macchine, attrezzature, prodotti e tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la demolizione, il ripristino e la riqualificazione delle strutture in cemento armato, con le sue aree tematiche Agretexpo, dedicata al trattamento e al riciclaggio degli inerti, Compavitexpo, dedicata alle pavimentazioni e ai massetti, e Idrexpo, riservata al taglio e alla demolizione del calcestruzzo. Alla terza edizione del GIC è anche previsto un ricco programma di convegni con relatori di fama internazionale. A Piacenza Expo dal 29 al 31 ottobre 2020. Per maggiori informazioni, gic-expo.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora siamo in collegamento ancora con Lubiana, Lisa Corva, giornalista che vive là. Lisa, noi vorremmo chiederti però, in casa è difficile fare questa raccolta? Cioè è come la nostra Milano, Italia, perché poi più o meno quello è lo standard, o è fatta in maniera diversa? Dunque, io vivo in una casa con un giardino, per cui noi davanti a casa, li mettiamo dove vogliamo, abbiamo dei bidoni, ognuno con una etichettona di un colore diverso per far riferimento al dubbio dell'ascoltatore. Esatto. Un bel colore diverso. E questi colori poi si ritrovano sui prodotti? No, ogni bidone è destinato a una differente raccolta differenziata, un po' come in Italia. Certo. Il vetro, la carta, la plastica e gli imballaggi, c'è il disegnino delle cose che vanno dentro. E poi c'è un bidone per tutto quello, c'è un bidone per il bio e c'è un bidone per tutto quello che non va. L'umido e poi c'è il misto, insomma è come da noi, direi. Però direi un'altra domanda è questa, è uguale in tutta la Slovenia, cioè i colori sono gli stessi? I colori, se non sbaglio, sono... Sai che da noi qua c'è un po' di variabilità, quindi... Ma da noi c'è anche variabilità con vetro, lattine, che a volte vanno insieme, a volte no. Dove va la lattina, dove va il vetro. Qui vi posso raccontare questo aneddoto. Uno dei primi anni che ero qua, devo aver fatto uno sbaglio, mi è arrivata la letterina a casa, tipo Svizzera, guardi che lei ha sbagliato. Perché ovviamente avendo il bidone, diciamo, personale, si può risalire. Ah, certo. È stata redarguita dicendo, anche se viene da Milano e sappiamo che a Milano è molto brava, lei è venuta qui. È un'eroina della cosa differenziata, però comunque non gli andava bene. Invece nelle case in centro, quindi nei condomini, diciamo, ma soprattutto in centro ci sono delle, anche lì per i turisti, diciamo, è tutto diverso, nel senso se uno si prende la briga di guardare può buttare la carta, buttare la plastica, eccetera, eccetera. Certo. Invece c'è una, cioè per l'umido c'è una cartina magnetica che hanno soltanto i cittadini che vivono in centro, di modo che uno non butti nell'umido delle cose che non c'entrano. Nell'umido altrui. grazie Lisa, ti dobbiamo lasciare. Grazie mille di queste informazioni. Sì. Una cosa, se posso. Dimmi. Perché la raccolta differenziata è una cosa su cui stavo pensando, su cui ho scritto ieri. Ve la butto lì, la raccolta differenziata emozionale, perché ho pensato in questi tempi di appunto in cui siamo tutti sempre più convinti della sostenibilità della raccolta differenziata eccetera, si potrebbe pensare anche di alla raccolta differenziata emozionale, ovvero dei sentimenti, cioè inutile stare lì a rammendare, ricucire rapporti e quant'altro. Ci sono delle cose che devono venire buttate, o meglio riciclate, perché magari anche un amore, un'amicizia che a noi non serve più va a essere la gioia di qualcun altro. Anche questa è una cosa differenziata, o no? Allora ci pensiamo elaboriamo. Esatto, assolutamente. Grazie Elisa. E intanto però ci lasciamo con la domanda se i sentimenti vanno nell'umido, direi. Chi lo sa? Lei dice di sì, però apriamo le consultazioni. Esatto. Grazie Elisa. Grazie, buon lavoro. Ti leggeremo su How to Spend It. Abbiamo già in collegamento con noi, vado veloce così recuperiamo un pochino di tempo, Valentina Di Lauro. Valentina Di Lauro, buongiorno. Ci sente? Non ci sente? C'era, non c'era. È sulla sua app. Sta smanettando sulla sua app. Buongiorno Laura. Allora, fondatrice, ma mi fa ridere di un'app. Come si fa a fondare un'app? Sì. Comunque, parliamo di un'app che si chiama Riciclario. Ora tu dici, che cosa fa questa app? Beh, intanto ti aiuta a fare questa raccolta differenziata e ti aiuta comune per comune. E ti aiuta a fare molto di più. Adesso Valentina ci dice anche che cosa. È stata premiata questa idea, questa iniziativa e questa app recentemente a Ecomondo nel 2019. Valentina, che cosa fa quest'app comunque? Te lo facciamo descrivere prima. Sì, allora, poter descrivere tutte le funzioni che ha al contatto sarebbe, diamo gli elementi. Impossibile, quindi diciamo le funzionalità che possono aiutare nell'immediato anche per i comuni che non hanno adottato Riciclario, perché Riciclario è possibile personalizzarlo con tutte le informazioni relative ai servizi di raccolta differenziata e igiene urbana presente nei comuni. Quindi ogni cittadino che la scarica riceve le informazioni a lui dedicate, quindi esatto, non può sbagliare. Noi ieri abbiamo provato, io l'ho fatto per la mia città, gli altri colleghi l'hanno fatto per Milano e così via, quindi è per tutti, no? Nel senso che sono i comuni presenti, comunque ci sono delle funzionalità che sono utili a tutti, ad esempio lo scan code che permette attraverso la lettura del codice a barra presente sugli imballaggi dei prodotti che acquistiamo normalmente di sapere dove vanno conferiti tutte le componenti di cui è fatto il prodotto, quindi se una multipack, una porzione formato famiglia mi dirà con l'imballo esterno e l'interno, le monoporzioni, in quali raccolte differenziate conferirle. È ovvio che laddove il comune non è settato perché non presente su Riciclario, darà delle informazioni generiche sulle frazioni principali di raccolta differenziata che sono presenti, perché sappiamo che comunque la raccolta differenziata è obbligatoria ovunque, quindi un servizio minimo di raccolta differenziata ci deve essere ovunque. E laddove invece esiste un sistema porta a porta o comunque con campane stradali o altre modalità, fornirà informazioni specifiche su come conferirle, quindi l'isola ecologica, laddove si tratta di rifiuti particolari, facciamo ad esempio una confezione di pile, l'imballo esterno andrà conferito nella carta e nella plastica, le due parti di cui è composto, poi le pile verranno conferite in base al comune nel centro di raccolta o presso i punti specifici sul territorio, quindi anche geolocalizzati, quindi è possibile anche vedere dove Valentina si trova. Valentina, non correre, che abbiamo tante domande da fare, quindi interrompiti ogni tanto. Allora, no, nel senso che visto che partiamo da questa lettera di un nostro ascoltatore che propone dei colori per rendere più semplice, e rispondo anche a qualcuno che manda dei messaggini dicendo ma Lubiana funziona come da noi, non è che abbiamo sentito Lubiana perché è un posto che fa una raccolta differenziata diversa dalla nostra, ma abbiamo sentito Lubiana con la curiosità di sapere se loro la fanno diversa visto che hanno ottenuto rapidamente dei risultati. Esatto. La fanno come noi, quindi è tutta una questione di regole, di imporsi delle regole. Sì, e soprattutto la cosa interessante è di farle rispettare anche. Sì, no, la cosa interessante di Lubiana è il fatto che fino a poco fa non lo faceva e che adesso invece sono molto avanti, quindi si può fare, nel senso che si può raggiungere un buon risultato anche in breve tempo e anche partendo in ritardo. Però abbiamo visto che nella tua app c'è che per facilitare il riconoscimento dei prodotti si può scansionare il codice a barre. Esatto, la domanda è questa, perché questo risponde precisamente al nostro ascoltatore, ma invece dei colori, semplicemente il telefonino che ormai tanto abbiamo tutti, uno lo mette davanti ed è la risposta a dove buttarlo. Ma nel pacchetto di pile, per esempio, se uno lo fa sul codice a barre, vengono spiegati tutte le singole parti dove andare o no? Le componenti fisiche dell'imballaggio viene spiegato, viene l'app risponde di cosa è composto, quindi se l'imballaggio è composto sia da carta che da plastica risponderà che la parte in plastica, il blister in plastica andrà nella plastica, che il cartoncino andrà buttato nel contenitore della carta. Quindi le informazioni specifiche. Riguardo i colori, ovviamente esiste uno standard che dovrebbe essere rispettato dai comuni, però in Italia ci sono molte realtà che utilizzano colori diversi, quindi in questo una tecnologia come Ricicladio va incontro in che modo? Nel momento in cui vengono settate le informazioni del comune, l'utente che si registra in quel comune sa che colore ha il contenitore della plastica in quel comune, quindi immaginiamo anche i turisti, perché abbiamo tante città turistiche in Italia, che è un paese molto turistico, quindi immaginiamo un turista che non sa nel proprio paese la raccolta della carta viene fatta con i contenitori di un altro colore, quindi si trova può trovarsi in difficoltà, invece con l'app potrebbe avere un supporto valido in questo. Oltre è in tutte le lingue l'app, è in inglese l'app? È in inglese, di default in inglese, è possibile settarla anche in altre in altre lingue, quindi anche il turista, se venisse istruito, potrebbe scaricarla e seguire la raccolta differenziata del comune in cui è in visita. Assolutamente, immaginiamo dove c'è il porta a porta, ricorda anche quando mettere fuori il contenitore, quindi ti manda una notifica e ti ricorda quando esporlo, quindi laddove parte un nuovo servizio aiuta, è fondamentale un supporto del genere, perché un utente che deve imparare, un cittadino che deve imparare a fare la raccolta differenziata porta a porta con delle frequenze, essere aiutato con il cellulare che ti ricorda quando metterlo fuori è un valido supporto, ma anche nelle fasi successive, appunto quando ci sono i turisti o comunque ci si può dimenticare di quando ci sono le raccolte alternate, nelle settimane alterne ci si può sbagliare la settimana in cui viene esporre il proprio contenitore, invece l'app viene incontro in questo, ma poi fa tante altre funzionalità. Sì, c'è anche la bacheca del riuso, c'è anche la quella interessante, le tariffe, è possibile utilizzarlo ovunque, non è necessario che sia settato il comune. La bacheca del riuso cos'è? In pratica è un luogo virtuale che noi abbiamo cercato di creare per mettere in contatto gli utenti che vogliono donare degli oggetti che per loro non sono, magari non hanno più utilità. Immaginiamo soprattutto, a me viene in mente, io anche una bambina piccola, quanti oggetti acquistiamo per i bambini e che vengono utilizzati pochissimo e molto spesso non sappiamo, vengono buttati via, e invece metterli a disposizione di altre persone ridurrebbe a monte la produzione di rifiuti, quindi favorisce anche un'economia circolare, che è il vero obiettivo, lo ricordiamo. Sì, perché visto anche in questo rispondo ad alcuni ascoltatori, ovviamente l'obiettivo è quello di produrre meno, e anche a Lubiana è quello il progetto, è di arrivare da 120 kg a pro capite fino a 40 al massimo all'anno pro capite. Va bene, grazie molte Valentina Di Lauro con il suo Ricicladio. Grazie. Per chi lo vuole consultare, lo sappiamo che in Italia abbiamo delle eccellenze, non è che non lo sappiamo, ma ci interessava una crescita rapida e vertiginosa come quella che è stata fatta nella capitale slovena. Abbiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I was your boyfriend when we were 15. It's the happiest that I've ever been. Even though we didn't understand. understand how to do much more than just hold hands. There's so much about you I miss. Ed eccoci qua, siamo tornati in studio. Vi ricordo che c'è sempre la possibilità di prenotarsi per il quiz 824 0024, ma giungono tanti suggerimenti anche sul nome che potremmo dare a questo nuovo pianeta così simile a noi, anche se molto distante. Li leggeremo ovviamente tutti, o almeno tutti quelli che riusciamo a leggere, no, certo, Carlo? Tutto certo. Quello che riusciamo a fare lo facciamo nel corso della... Ho letto Obabà, chiamiamolo Obabà. Obabà. Il pianeta. A sfogliatella. Vabbè, potrebbe essere un'idea comunque, anche quella. Stiamo prendendo nota un po' di tutto, poi magari scriviamo, non so, all'ESA, chi li mandiamo sti nomi? Mandiamoli all'università, magari lì alla Federico II, può essere che può riescano essere a farne buon uso. Però vorrei riportarti sul tema che tu avevi un po' toccato in apertura, quando ci dicevi che per te la buona notizia della settimana è stata che insomma, per ora la terza guerra mondiale non è scoppiata, quindi c'è stata tensione, c'è stata paura, ci sono state vittime, ma insomma sembra che ci sia una fase di stallo. In queste situazioni il commento così più spontaneo che ci viene un po' a tutti è: ma se la chiudessimo col petrolio potremmo risparmiarci magari tante di queste guerre, di queste tensioni? Ce la siamo posti anche noi nel corso della riunione di redazione e abbiamo deciso di girare la questione al nostro ospite, che è Massimo Nicolazzi, docente dell'Università di Torino, advisor dell'ISPI, autore di un volume che si intitola Elogio del petrolio. Buongiorno professore. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Buongiorno. Allora, il suo Elogio del petrolio ha un titolo, diciamo, che sembra un'affermazione, ma che poi dentro viene sviluppato in un'altra, così, insomma, poi adesso ne parliamo. La prima domanda che però le faccio è proprio quella: se tagliassimo, no, con le fonti fossili, avremmo un mondo più pacifico? Cosa ne pensa lei? Allora, tutto quello che noi compiamo nella nostra vita, tutto quello che è lavoro utile, tutto quello che facciamo dipende da un consumo di energia e da una trasformazione energetica. Oggi l'81% dell'energia che noi consumiamo è di origine fossile. Se ne facciamo a meno domani mattina, forse le guerre non si fanno più con gli aerei per mancanza di benzina, ma credo che dal punto di vista sociale le guerre vadano a moltiplicarsi anziché a diminuire. Perché a moltiplicarsi? Perché ci manca l'81% dal mattino dell'energia alla sera di quello con cui produciamo lavoro, ricchezza, prodotto interno lordo. Quindi noi avremo comunque sempre bisogno di una fonte di energia, giusto? Ma comunque nulla al mondo che non passi da un processo di trasformazione energetica. Certo. All'inizio il processo di trasformazione energetica era molto semplice. La fonte era il cibo, se penso alla preistoria in forma di bacca oppure di mammut, poi c'è un convertitore che all'epoca primordiale del Sapiens era semplicemente il nostro muscolo, e poi produci del lavoro utile. Certo, ma mi scusi, nessuno in realtà pensa che bisogna smettere di usare il petrolio nel senso di fermare tutte le macchine. Ci stiamo tutti insieme occupando del fatto di trovare un'altra energia, ovviamente, no? Nel senso che nessuno pensa di dire basta col petrolio, tutti. No, ma io sono d'accordo con voi, ne sostengo la necessità. Ma vede che deve essere una transizione. No, credo che una delle priorità del Sapiens, cioè della nostra specie e di quello che di noi resta, sia oggi sicuramente di sostituire quanto più possibile il fossile con altre fonti, per riportarci ad un consumo di energia che sia compatibile con l'ambiente che ci circonda. E rinnovabili, per esempio. Sto solo dicendo che oggi siamo all'81% di fossili. Sì. E sto anche aggiungendo che tutto quello che diciamo spesso sono solo parole. Quando ci fu l'accordo di Parigi, di cui tanto abbiamo parlato, in cui apparentemente tutti i paesi del mondo si misero d'accordo per una politica di riduzione delle emissioni, tutti ci sentimmo un po' meno fossili e un po' più freschi. In realtà da allora, anno dopo anno, le emissioni sono sempre salite. Abbiamo un piccolo problema con la politica e con quello che stiamo combinando. Quindi per ora siamo a parole, parole, parole? Siamo a parole, parole, parole, perché nel 2019 abbiamo battuto il record storico di emissioni in atmosfera, lo avevamo già battuto nel 2018, lo avevamo già battuto nel 2017, lo avevamo già battuto nel 2016. Ma non rischiamo di essere a parole, parole, parole proprio perché elogiamo il petrolio invece che cercare sul serio delle alternative? Per cercare sul serio delle alternative lei avrebbe un fortissimo bisogno di buona politica. La politica con le alternative ha un piccolo problema. I tempi della politica e i tempi del clima non coincidono. Se lei fa politica vuole vincere le elezioni domani mattina, se lei si occupa di clima ha voglia di diminuire le emissioni e probabilmente di chiuderle in un arco di medio-lungo periodo. E questo è un problema certo della politica, che ha una visione solo, questa è la cattiva politica, perché la buona politica dovrebbe, visione, dovrebbe occuparsi avere delle nuove generazioni invece che delle nuove elezioni. Io sono d'accordo. D'accordo con lei, però non parlerei di buona o di cattiva politica, parlerei di regole della politica, nel senso che bene o male chiunque usi fossili oggi nel breve periodo crea più ricchezza e crea meno spesa. Non è un caso. Però è proprio lei, per lei questo. Parla, scusi, lei parla di cattiva politica, però Trump le elezioni le ha vinte democraticamente. Bolsonaro anche, allora il tema è... C'è tutta la questione creiamo di Cambridge Analytica lì, se vogliamo parlare del democraticamente. Beh, ma comunque mettiamo, mettiamo anche quella, però ecco, certo, lei stava dicendo, professore, dipende anche dagli elettori. Dipende sicuramente anche dagli elettori, dipende da come riusciamo a catturare consenso intorno ad un programma di transizione. Il problema del catturare consenso, vede, è che la transizione energetica non è un pasto gratis. La transizione energetica ha dei costi, questi costi hanno una ricaduta sociale, c'è un tema di ripartizione di questi costi. Le faccio un esempio molto elementare. Lei oggi paga una bolletta elettrica che per il 20% è fatto di sussidi alle rinnovabili e non di costo dell'energia e della sua produzione. Se lei fa una politica di transizione che ne mette in bolletta i costi, lei fondamentalmente fa l'equivalente di una tassazione regressiva, cioè fa pagare la transizione energetica di più al ceto medio e ai ceti meno abbienti dal punto di vista della loro capacità di consumo e di reddito. E questo è un meccanismo che dobbiamo rovesciare. Certo, se no succede quello che è successo con i gilet jaunes. Non possiamo far sì che la transizione energetica costruisca ulteriori disuguaglianze, se no non la faremo mai, non vinceremo mai le elezioni. Però mi scusi, questo io sono molto d'accordo, ma questo vuol dire trovare un modo migliore per fare la transizione, non diciamo evitare di fare la transizione e rimanere nella situazione in cui siamo, ovvero viva il petrolio. Cioè, giustamente, come lei prima diceva, se uno vuole un risultato rapido usa il petrolio. E infatti è per questo che mi sembra che la cattiva politica, quella che lei non vuole chiamare cattiva politica, rischia di elogiare il petrolio e non di occuparsi delle rinnovabili, perché ci vuole un sacco di tempo e a quel punto le elezioni le vincerebbe qualcun altro. Ci vuole tempo, ci vogliono anche soldi, e il tema politico, io continuo a non entrare nella buona e nella cattiva politica, il tema politico è che quando lei parla di transizione energetica lei sta andando da un elettore a dirgli: consuma un po' di meno oggi che tuo nipote starà meglio. Non è semplicissimo vincere le elezioni sulla base di questa proposizione, come credo lei convenga con me. È certo. Come credo lei convenga con me, no? Perché la signora Gina le risponde: dai, se si alza un po' il mare mi arriva più vicino, mio nipote ci mette meno tempo ad arrivarci, o altre argomentazioni di questo genere. Non abbiamo mai avuto un'opinione pubblica che ha votato in base alla sua percezione scientifica, non so come dire, questo è un dato di fatto. Allora, come giriamo la torta? Da un lato dovremmo riuscire a fare una politica della transizione che ne ripartisca gli oneri in maniera non regressiva. Che cosa voglio dire? Se io faccio pagare una carbon tax, cioè una tassa ambientale, dentro un paese, io dovrei usare i proventi di questa tassa ambientale per renderla progressiva, cioè alla signora Gina devo restituire di più di quello che lei paga, perché una tassa ambientale penalizza comunque i consumi. Ok, adesso le devo chiedere la seconda parte, perché sennò poi dopo non abbiamo più il tempo. Diceva, una è questa, la politica della transizione, l'altra? La seconda è, ricordiamoci che abbiamo degli studi che ci dicono che il danno del fossile per il 70% sta sulla terra e solo per il 30% va in atmosfera. Cioè, ricordiamoci che esiste l'inquinamento oltre all'emissione. Se lavoriamo sul danno che sta sulla terra, riusciamo a fare qualcosa di visibile domani mattina, anziché fare semplicemente un favore ai nipoti. E su questo magari riusciamo a costruire. Questo ci portiamo dietro molte persone. Se grazie. Posso uno slogan di un secondo, dai. Più difesa del suolo e meno sussidi. Perfetto, più difesa del suolo, meno sussidi, l'effetto immediato e magari un cambio di politiche più veloce appunto nei nostri governi. Massimo Nicolazzi, professore, la ringrazio per essere stato con noi. Elogio del petrolio è il suo libro. È il momento edito Feltrinelli, grazie. Edito Feltrinelli, grazie. Viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed è giunto il momento del quiz, il famosissimo quiz con il quale vi potete portare a casa due biglietti per la visita al MUDEC della mostra Impressioni d'Oriente, ed è collegata con noi dalla provincia di Milano. Grazia, buongiorno. Buongiorno Grazia. Allora, il gioco se lo ricorda, no? Tre possibilità di risposta, lei dice la 1, la 2 o la 3 e vediamo. Allora, il quiz che le proponiamo è questo. Nei prossimi giorni nel Regno Unito arriverà una nuova collezione di francobolli che celebra un soggetto molto particolare. Sarà disponibile in oltre 7.000 uffici postali britannici. Ma a chi è dedicata? Risposta numero 1. È dedicata ai videogame del passato. Risposta numero 2 è dedicata ai bulldog più famosi della storia. Risposta numero 3 è dedicata al magico mondo di Harry Potter. Harry Potter. Risposta numero 3, sentiamo. No. Non purtroppo, signora, non è Harry Potter, anche se effettivamente poteva starci. Ma sono francobolli dedicati ai videogame del passato. Comunque, come al pianeta mi piaceva il nome Extra Sol. Le piace? Extra? Extra Sol, perché fuori dal sistema solare. Avevo capito extra soldi. Soldi extra. O anche extra solino. Dai, extra. Molto bene, lo segniamo tra i nomi proposti del pianeta. La ringraziamo moltissimo di aver chiamato. Abbiamo anche un altro concorrente, lo vogliamo sentire subito, ce la facciamo prima della classifica delle buone notizie della settimana, ed è Lino da Ascoli Piceno. Buongiorno Lino. Buongiorno. Buongiorno. Io avevo pensato dare il nome al pianeta, Adamo. Adamo. Sì, perché in riferimento alla storia di Adamo ed Eva. Certo. È il primo pianeta che scopriamo che effettivamente potrebbe essere abitabile. E come mai non Eva? Eva perché è venuta dopo Adamo. Ma poi non è la pianeta, è il pianeta. È la Terra, insomma, possiamo tranquillamente trovarlo. Va bene, la ringraziamo moltissimo. Allora, adesso le facciamo il quiz però, perché lei ha chiamato per quello, giusto? No, lei ha chiamato solo per il pianeta. Allora, facciamo una raffica di pianeti. Francesca dalla provincia di Firenze, buongiorno. No, proprio Firenze, non dalla provincia. Ah, vedi, qui c'è scritto prov di Firenze. Allora, chiedo scusa. Francesca da Firenze. Questa città in maniera speciale. E dunque, io pensavo Gea, non è originale, però siccome questo è un pianeta gemello, cugino della Terra, Gea è il nome animico della Terra, nasce dal caos, cioè diciamo che prima c'era il caos e Gea genera tutti i pianeti, quindi questa simbologia dell'uscire dal caos, dal rigenerare una nuova vita, così, proprio... Bene. Cogliamolo, io sto facendo un lungo elenco, poi magari lo possiamo pubblicare, appunto, non mandare. Non è originale perché Gea lo si usa proprio alla madre terra, quindi... Certo. Però lei sottolinea la gemellanza, diciamo, sì, con diciamo questo pianeta. Sì, la gemellanza positiva di Gea, che ricrea un nuovo mondo, insomma. Benissimo, grazie molte Francesca del suggerimento, buona giornata, grazie. Andiamo con la classifica delle buone notizie della settimana. Questa settimana abbiamo messo Tokyo 2020, ovvero le Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli atleti dormiranno su letti di cartone e materiali riciclabili. Tutti o io spero solo gli altri? Io li ho visti. No, dicevo, spero solamente gli atleti, non quelli italiani, perché pensavo che letti di cartone e materiali riciclabili fossero scomodi, invece era una battuta, perché ovviamente sono ottimi. Io li ho visti, letti. Semplicemente è la struttura del letto che è fatta di cartone, che poi sarà riciclato, ma poi sopra c'è il materasso, insomma, certo. Ecco, non è che ti costringono come un fakiro. Tra l'altro è una delle scelte sostenibili che colpiscono di più per le prossime Olimpiadi, ma ci sono anche la decisione di realizzare medaglie con metalli estratti da elettronica di consumo riciclata, tra cui cellulari usati. Poi c'è la torcia olimpica fatta da rifiuti di alluminio, i podi da rifiuti in plastica e spazzatura trovata in mare, la corrente elettrica da fonti rinnovabili. Queste sono alcune delle scelte delle prossime Olimpiadi e beh, io pensando ai letti poi ho visto che insomma ci sono migliaia di atleti, serviranno 18.000 posti letto, insomma se possiamo risparmiare sulla costruzione di questi 18.000 letti è tanto di guadagnato per tutti. Assolutamente. Al quarto posto invece troviamo una questione Facebook. Quante volte abbiamo visto i compleanni, anzi quante volte ci siamo ricordati dei compleanni di persone che altrimenti non ci ricorderemmo che quello lì è proprio il giorno del compleanno. Ecco, questa questione dei compleanni è fonte anche di ottime donazioni, perché più di 45 milioni di persone nel mondo hanno donato o creato una raccolta fondi su Facebook, una cifra che è più che raddoppiata nei primi 10 mesi del 2019, cioè nel 2018 furono una ventina di milioni. Su Facebook sono stati raccolti oltre 2 miliardi di dollari, la metà, 1 miliardo, proviene appunto dalle raccolte fondi attivate per il proprio compleanno. E per esempio AISM, che è l'associazione italiana sclerosi multipla, ha raccolto attraverso i compleanni su Facebook la cifra importante di 700.000 euro. Perché vi raccontiamo questo? Al di là che è un'ottima e buonissima notizia, ma anche perché molto spesso pensiamo: ah, ma cosa sto a fare la mia piccola raccolta fondi, dove ne raccolgo magari pochi soldi? Beh, quei pochi soldi sommati tutti insieme in realtà fanno tanti soldi. Faccio un esempio: dal novembre 2017 ad oggi sono state attivate, sempre per AISM, oltre 12.000 raccolte fondi. Tutto questo ha tirato su i 700.000 euro di cui parlavo, e quindi la media è di circa 60 euro a raccolta fondi, quindi va benissimo fare una raccolta fondi anche di soli 60 euro. Al terzo posto, le navi inquineranno meno al via il regolamento emissioni shipping e cantieri. Il nuovo regolamento adottato dall'Organizzazione Marittima Internazionale delle Nazioni Unite pone un limite al contenuto di zolfo nell'olio combustibile utilizzato dalle navi, che passa dal 3,5% allo 0,50%. È conosciuto come IMO 2020, il nuovo massimale è obbligatorio per tutte le navi che operano al di fuori delle aree di controllo delle emissioni termini di zolfo, eca, aree marine in cui sono già previsti controlli più severi per ridurre al minimo le emissioni, e poi le aree come il Mar Baltico, il Mare del Nord, l'area nordamericana, l'area marittima caraibica degli Stati Uniti, nei quali ci sono già dei regolamenti in vigore, e speriamo faccia presto i suoi effetti anche sulle nostre città italiane che soffrono del problema dell'inquinamento delle navi. Al secondo posto, quadruplicate le immatricolazioni di auto elettriche e ibride in Italia. Segnano un più 362% le immatricolazioni di auto elettriche e ibride in appena 5 anni. Il balzo è del 37,6% solamente quest'anno. Le immatricolazioni che sono così aumentate, si prevedono punteggi aggiuntivi per chi usa mezzi di trasporto a basso impatto inquinante. Chiedo scusa, lo rispiego. In diverse gare d'appalto addirittura si prevedono punti aggiuntivi se uno usa mezzi di trasporto a basso impatto inquinante, e questo ha fatto sì che molti acquistassero auto a basso impatto inquinante. E infine vogliamo mettere al primo posto questa settimana Parma, capitale della cultura 2020, perché proprio in questo fine settimana si inaugura l'anno di Parma, capitale della cultura. Alla cerimonia istituzionale di apertura domani, domenica 12 gennaio, al Teatro Regio ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e poi ci sono 3 giorni di eventi che accendono i riflettori sulla città. Città che tra l'altro più di una volta è stata, diciamo così, tra virgolette, nostra ospite, nel senso che abbiamo parlato di Parma e di molto cose che vero. Si svolgono a Parma, e quindi siamo molto felici per loro che inizi questa grande avventura. Ci sono tantissime mostre, tantissime iniziative e ovviamente tantissima musica, perché parliamo di Parma, e quindi andiamo numerosi. Siamo sicuri che in quest'anno avremo occasione, esatto, di parlare di Parma. Ecco perché oggi, invece che sentire Parma, giustamente l'abbiamo messa al primo posto della nostra classifica mondiale. Delle buone notizie mondiali della settimana. E allora, qui chiudiamo la classifica, ma abbiamo ancora spazio per un quiz. E forse anche abbiamo spazio per nuove proposte per i pianeti, ma vediamo cosa riusciamo a fare. Il partecipante per il quiz è Giovanni da Pisa. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Pisa o Pisa? Perché prima abbiamo detto provincia di Firenze e la signora Fiorentina si è risentita. Comune di Cascina. Ah, va bene. Allora, di qua, qua era provincia di Pisa. Va bene. Allora, Giovanni, le leggo il testo del quiz. T.B. Dixon è un agricoltore australiano che per quasi 20 anni ha lavorato per sviluppare una nuova varietà vegetale attraverso l'impollinazione incrociata. Quale varietà è riuscito ad ottenere? Risposta numero 1. Ha ottenuto le prime rape al sapore di liquirizia. Ha ottenuto i primi licci senza semi e noccioli. Risposta numero 3. Ha ottenuto i primi ginkgo biloba in odori. Risposta numero 2. No, le rape, i lici senza semi e noccioli. Tutta esattamente. Polpa, niente noccioli. Esatto. In effetti lì il nocciolo è un problema, che è troppo grosso rispetto al frutto. Quindi Giovanni si porta via i 2 biglietti per la mostra del MUDEC, Impressioni d'Oriente. Buon proseguimento, grazie dell'ascolto Giovanni, alla grazie, prossima. Le posso fare una proposta? Certo. Aurora. Ah, io pensavo una proposta a Laura Bettini ero curioso. Stavo uscendo dallo studio. Il pianeta lo chiamiamo Aurora. Grazie. Aurora. Ho preso nota. Grazie, anche perché in qualche modo il nostro ascoltatore che ha vinto il quiz ha portato via i biglietti a coloro che dicono il nome migliore, perché avevamo detto se nessuno vince il quiz, allora potremmo estrarre un nome tra quelli del pianeta a cui assegnare 2 biglietti. Il quiz è andato. Ha preso i biglietti, quindi ha lasciato un nome. Esatto, doppia. Esattamente. Doppia. Allora abbiamo Lucio invece dalla provincia, sembra, di Campobasso, che vorrebbe parlare invece che di pianeti o di quiz di raccolta differenziata, se non erro. Lucio, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Complimenti. Grazie. Per la scelta degli ospiti e anche per voi. Grazie. Allora, di cosa ci voleva dire? Niente, volevo dare la mia testimonianza, anche perché poi uno legge le statistiche su tanti fronti e pensa che viviamo nel terzo mondo. Intanto, prima cosa, complimenti per la Lubiana e la Slovenia. Vede, noi siamo un piccolo paese di meno di 500 abitanti, dove ancora dopo 500 anni parliamo croato. Sì. Penso che lo testimoni è il mio accento, che non è riconducibile né all'abruzzese né al molisano. E mi capita spesso di essere andato da quelle parti, quindi oltre a Lubiana c'è anche Zagabria, che è un fior di città, e ora non ho statistiche sotto mano, sono sicuro che ha fatto gli stessi progressi di Lubiana. Poi volevo dire la testimonianza sul mio paese è questa. Deve dirla velocissimo. Da anni facciamo la raccolta differenziata, non solo, ma è porta a porta, e tutti in maniera veramente svizzera seguono le istruzioni, il calendario della raccolta rifiuti che il comune ci manda. Il suo paese si chiama, no, ci dica il nome del paese, così il... Montenitro, Mundimitar in croato. Montenitro. Va bene, Montenitro. Complimenti a tutti gli abitanti, complimenti anche a lei, Lucio. Grazie per averci chiamato in redazione. Andrea Piana, Edoardo Lavezzari, Danilo Di Trani in assistenza. Oggi Edoardo Lavezzari, in regia Carmelo Lauricella. In studio Laura Bettini e Carlo Gabardini. Ciao, a domani 8:30. Si può fare.